Ma basta! Non si può. Non si può cosa? Allora, protestiamo. Bisogna andare in piazza così. Così. Basta, è ora di finirla. Ma cosa? Basta. Ti metti davanti alla bocca un megafono, basta. Allora diventa la protesta. Basta. Però se protesti a voce bassa. Sì, basta. Ma se fosse basta la voce nel megafono? Chiedo asilo. Ho dormito 2 ore, drago. Tu dormi 2 ore. Più c'è l'autunno, no? Che entra in questa fase di crisi, sì, lo dicono tutti, le mezze stagioni. Ma c'è la nebbia. Appunto, non solo esistono le mezze stagioni. L'altro giorno faceva caldo, c'era il sole, la nebbia. No, quei giorni lì sono giorni di illusione, quelli di caldo di ottobre. In realtà poi l'autunno è l'autunno, esatto, l'ottobrata. Però voglio dire, tutto svanisce. Però a un certo sai punto. Cosa? Alla fine sarà anche autunno, ci sarà anche la nebbia, l'ottobrata e tutto. Ma alla fine oggi è venerdì. Sì, cosa fai all'unisono? Vabbè, allora comunque venerdì, mi lascio andare. Poi alla fine voglio dire, questa giornata finirà, sì. E tutti quanti si lasceranno andare. A cosa? Al weekend e va bene. Comunque proprio il venerdì. Tu puoi fare tutto qui e dire tutto quello che vuoi. Però è scientificamente provato che le mezze stagioni favoriscano la depressione. Cioè sia l'autunno sia la primavera, così fa venire un po' di malinconia la gente. Drago, a me basta l'autunno. Che sia venerdì e la depressione non so più che cosa sia. Venerdì. Stanchezza, irritabilità. Ah, ecco. Calo del desiderio, quello. Vabbè. Tutti i sintomi del mal d'autunno, capito? Vabbè, allora, qualche mese fa c'era la depressione del post vacanza, del rientro al lavoro. Adesso c'è quella legata all'autunno, il freddo, la nebbia, eccetera. Sì. Le giornate più corte, quella roba lì. Vabbè. Tra un mese e mezzo cosa c'è? Adesso, che ne so, tireremo fuori che le vacanze natalizie portano stress e quindi depressione. E quindi la cena con i parenti. Siamo sempre depressi. E poi si fa il giro del calendario, no? Lo stress da vacanze agostane vere e proprie è un classico dei giornali d'agosto, no? Le file al check-in. Sì, agosto, è ottobre, di cosa stiamo parlando? Più brutto, i bambini che fanno i capricci. Cioè, ogni momento dell'anno, certo, è così. Certo, ogni mese dell'anno ha delle ricadute sulla psiche di noi poveri cristi. Va bene? Diciamo che tu hai la tua teoria sui giorni della settimana, altri hanno la teoria sui mesi e le stagioni. Vabbè, ma parlate della stessa cosa. Ma no, alla fine. Perché io ho il venerdì, che è la panacea di ogni depressione. Panacea. Scusa, spiegami invece a livello di mesi. A livello di mesi. Se c'è un mese che corrisponde al venerdì, cioè un mese in cui tutto deve ancora succedere, in cui la speranza è il tema dominante, in cui puoi affrontare tutto senza stress, capisci? Qual è? Il mese venerdì. Qual è? Non qual saprei, è? Forse maggio. Che qual è? Qual è? Maggio, uno pensa a maggio. No, sono le tasse da pagare a maggio. Allora giugno, no? Fa caldo, le giornate si allungano, finiscono le scuole, tutti contenti. No, perché la fine della scuola è anche la fine della pace per i genitori dei bambini che vanno a scuola. Beh, allora lasciamo stare. Non esiste un mese simile al venerdì. Perché se il venerdì durasse un mese... buonanotte. Che fine faremo? Non lo so, questo lo dico. Pensa a tutti quegli aperitivi con gli stuzzichini. Un po' velenosi, sì. Un mese di happy hour. Vabbè, poi per te un mese col cane sul divano davanti alla TV. Io ci metto la firma, sul cane. E ora, bambini, ricreazione! Allora, tu guarda se faccio giusto, 800-001-999. No, ma ti dico, tu controlla e basta. 2, 3, 4. E vabbè, ma sei preoccupato. Cioè, cambiamo pagina allora, qui c'è geografia. Premo questo qui. E niente, anche qui, ma. Sono tutti occupati. Bambino Alberto, cosa stai facendo? Stai studiando. Ciao, Eva. Stai studiando con la becedà. Ti vedo con il tuo libro cosa sono? Le mie prime parole. Che bello, bravo, No, mi piace che fai queste cose. Il nuovo. Sì, ma Drago, ma. Oggi c'è qualcosa di strano perché. Perché non c'è K? Ma tu sei. Sei da solo. Sono da solo perché K, che vuole sempre fare la ricreazione, quando sente suonare la campanella, poi è sempre da qualche parte. E c'è Gildo comunque, quindi siamo in tre comunque, no? Bravo, bene. Comunque, questo qui è l'abecedario, no? Bravo, mi fa piacere. Aspetta un attimo. Sì, un attimo solo però. Aspetta, sì, guarda qua. Ma perché il telefono? Non capisco. Il mangia quando vuoi, fai un ordine. Pronto? Sì, ecco, vorrei fare un ordine del, sì, del mangia quanto puoi. Quanto puoi? Quanto possiamo, allora. Due patatine giganti. Giganti. E un triplo hamburger con tripla salsa. Triplo. Un hamburger singolo liscio. Un milkshake alla fragola. Fragola. Tu hai cioccolato o fragola? Cioccolato. E uno cioccolato. Facciamo due cioccolato. Due. Ecco, ecco fatto, dai. Vabbè, però allora ti stavi distraendo perché studiare, insomma, mi pare che no. Tu stessi telefonando, no, ordinando. Sto facendo esercizio. Allora, questo qui è l'abecedario ufficiale dell'asilo, no? Sì. È fatto così, cioè, ci sono tutte le materie, c'è geografia, anatomia, gli animali. E di fianco ci sono queste pagine e ci sono queste offerte, no? Poi siccome ci hanno detto... Vedere un attimo. Ma è vero, cioè, le offerte. Geografia, e guarda qua, geografia, no? E quindi fianco poi lì spiega il Monte Bianco. E di fianco c'è settimana bianca all inclusive, 50 all inclusive. Euro. 50 euro, Ma questo non l'ho mai visto. Poi guarda qua, ho messo già i segni, vedi? Qua anatomia, no? Anatomia. Trattamento rassodante 10 euro. Ma di cosa? Ma rassodante di cosa? Ma è generico, no? Generico. 10 euro. Sì, ma non ho e capito. E qui se non ti metti l'impegno, si perdono le occasioni. Ma allora, questo è un finto abecedario in cui hanno infilato dei volantini pubblicitari. Non riesco a capire, allora. Bambino Ci Alberto. Ci hanno detto, ragazzi, bambini, studiate e poi fate gli esercizi. E qui l'esercizio è questo qui dello shopping, no? Ma che esercizio? Sì, ma come? Ma se l'hanno messa nel libro, vuol dire che è una cosa importante, no? Imparandum e comprandum. Ma come imparandum, comprandum? Che lingua comprandum. Parli? Comunque, ma dai, ma bambino Alberto. Noi hanno detto, fate gli esercizi. Quindi io ho letto... Adesso compro, no? Esercito a consumare. Ma... Tanto io, allora, c'ho la carta di credito di famiglia. Ma sì, quindi, vabbè, la carta perché, di credito. Dai, quando si tratta di istruzione... Ah, giusto, i genitori non lesinano. Però quale istruzione? Questo non è un libro per i bambini, è un catalogo di vendita per corrispondenza travestito da libro di testo. Bisognerebbe parlarne con la direzione dell'asilo, perché sicuramente c'è qualcosa che non va. Allora, piano che le parole poi diventano pietre, Perché queste qui sono tue deduzioni. Mie deduzioni. Questo qui è l'abecedario ufficiale dell'asilo. Ho capito, ma ci sarà un errore. C'è anche il timbro? Il timbro. Senti un po', se vuoi capire, lo capisci? Se no mi lasci in pace, perché io sono in lista d'attesa per un po' di offerte, no? Qui mi squilla il cellulare continuamente. Ecco. Allora, e vedi qua, rispondiamo. Oye, Gildo. Sì? Pronto? Sì, sono io. Sì, per il tour della Valle di Re. Ma cos'è il tour della Valle di Re? Ecco, no, l'importante è che ci sia compresa la colazione internazionale. Ma bambino Alberto, hai 3 anni, cosa dici? No, uova, wurstel, pane asimo, kebab di montone. Ma cos'è il kebab? Allora, ok. C'è la sala giochi? Bambino Alberto, fermati. Ma non ti rendi conto che sei caduto nel tranello dello shopping compulsivo? Lo shopping compulsivo. Bambino Alberto, sei una vittima. Una vittima della degenerazione del capitalismo che si è insinuato anche nella scuola. È incredibile, è uno scandalo. Ma chi? Ma cosa stai ti dicendo? Stanno fregando. Stanno fregando i tuoi genitori, visto che sono loro che pagano le vacanze alla Valle dei Re, che non so nemmeno che cos'è. Come si chiama? Le Cime dei Re. Perché? Ma non c'è la sala giochi. No, ti stanno fregando perché ti fregano dei soldi che non dovresti spendere, bambino Alberto. Ma quale fregatore? Sala giochi? Ma tu sei ingenuo. Queste qui sono super offerte imperdibili. Ah, beh, certo, sì. Comincio a capire adesso. Cosa tu vuoi il mio libro? Sì, perché tu vuoi approfittarti di un minore, Per i buoni sconto. Ma io dovrei fidarmi di te. Ma io non so nemmeno che cosa sono i buoni sconto. Ma senti, arrangiati, io non mi preoccupo certo per te. E poi io non sono mica tuo papà, scusa. Continua pure lo shopping compulsivo. Cosa se vuoi. A prenderla così. E poi non lamentarti se finisci nei guai, perché poi finisci nei guai. Ma perché trattarmi così? Dai, senti, ti faccio un regalo. Mi è rimasto un buono. Qui c'è un trattamento speciale, una roba americana. Cioè, che non so cosa sia, avete roba in inglese. Solo 15 euro, è penis elongation. Vabbè, bambino Alberto, elongation. Elongation è una roba americana, drago. No, non andare via. È una roba americana, sarà un trattamento. Gildo, qui penis elongation, lui non lo vuole fare, 15 euro. Americano! Tu vuoi fare. È americano, tu vuoi fare penis elongation. Penis elongation! Non so. È puttana caso che è una cosa. Non so neanche io. Mancano 56 giorni alla fine del mondo. Würstelino, olivina, cetriolino, bruciore di stomaco, cipollini. Meno male che ho l'ansoprazole. Aperitivo del venerdì. Volevo offrire un aperitivo a tutti. Sì, vabbè, insomma, io la soprazzolo, va bene. No, tu cerca, tu cerca di ricordarti i nomi di tutti quelli a cui vabbè, devo difficile. Offrire. Allora, chi lo offriamo? Del offriamo a Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Alberto Caserini, e a Guido Bertolotti, a Salvatore Iorio. Non lo so, ti viene in mente ancora qualcuno? Sai che cosa? Secondo me non è l'autunno che mi fa venire la depressione, sei proprio tu.